fai troppi disegnini. Tu mi dici ed io vorrei trasformarti in un fumetto e ti disegnerei. Alta, bassa, magra e grassa, ogni volta come ti vorrei. Stratosferica e spaziale, coi capelli blu. Voleresti sopra i grattacieli, e se anche poi cadessi giù, non ti faresti mica male, non piangeresti più. E invece tu sei vera di fronte a me, mangi una per e sputi via i semi e ridi e piange, poi ti stanchi e poi mi fa incazzare, poi ti viene la malinconia, poi ti verranno anche i capelli bianchi fino in fondo, solo tu sai fino in fondo se sei veramente mia o se stai vivendo una bugia. Di fronte a me mangi una per e sputi via i semi e ridi e piange, poi ti stanchi, poi ti incazzi, poi ti scazzi, poi ti torna l'allegria e poi mi abbracci e mi prometti e non mantieni, siamo nelle nostre mani, siamo sempre a dirci che saremo migliori da domani, da domani, da da da da da da da da, se sei veramente me. Da da da da da da da da da da da da, invece tu sei vera di fronte a me, mangi una per e sputi via. Da da da da da da da da da da da da, invece tu sei vera di fronte a me, mangi una per e sputi via. Dai dai dai dai dai dai dai dai, invece tu sei vera di fronte a me, mangi una per e sputi via.